I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. A pochi giorni dalle notizie sui successi dell'attività dell'Agenzia delle Entrate con il record di 19 miliardi di euro incassati nel 2016 per il recupero di evasione, oggi tocca a Equitalia comunicare i propri risultati. Nel 2016 la società pubblica di riscossione ha incassato oltre 8,7 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2015, di cui 4,6 miliardi recuperati per conto dell'Agenzia delle Entrate e altri 2,5 per conto dell'INPS, che sono poi i due azionisti della SPA pubblica. Sempre l'anno scorso sono state inviate circa 23 milioni di cartelle esattoriali, quasi 6 milioni in meno rispetto a due anni prima. Quindi meno cartelle, ma la riscossione è in crescita. Conferma che si possono ottenere buoni risultati anche senza gli eccessi del passato, e questo grazie anche al fatto che negli ultimi anni governo e Parlamento hanno cercato di rendere meno severe le regole della riscossione. Guardando avanti, Equitalia è impegnata sia nella difficile operazione di rottamazione delle vecchie cartelle, sia nel percorso che a partire da luglio la trasformerà in un ente pubblico economico. Equitalia prenderà il nome di Agenzia delle Entrate e Riscossione, diventerà un'attività svolta direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che quindi gestirà l'intero ventaglio delle attività fiscali, il controllo, l'accertamento, la riscossione. Capiremo presto se questa scommessa verrà vinta o se, come molti sospettano, la trasformazione da Equitalia ad Agenzia della Riscossione sarà solo un inutile cambio di nome. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Impazzire per l'iPhone è una frase ormai tipica tra i giovani e meno giovani di ogni parte del mondo, ma che anche il mercato finanziario si lasciasse trasportare dall'onda emotiva per la semplice celebrazione dei primi 10 anni di vita del pervasivo telefonino di Steve Jobs, beh, questo davvero se lo aspettavano in pochi. Invece anche il decennale dell'iPhone sembra contare per i mercati finanziari non meno del bilancio della Apple. Senza altre ragioni apparenti, se non proprio le 10 candeline sull'iPhone, il titolo del colosso dei computer, dei tablet, delle comunicazioni integrate è stato letteralmente sommerso dai regali degli investitori che fin dall'apertura di Wall Street si sono messi in fila per comprare non l'iPhone, ma le azioni della Apple. Il titolo è salito infatti al nuovo record di $133,2 per azione, un prezzo che ha portato il valore totale della società a $695 miliardi. A oggi, e malgrado 3 trimestri di cavi deludenti, Apple è in rialzo del 19% dalle elezioni di Trump e addirittura del 41% sugli ultimi 12 mesi. Ma chi ha davvero vinto la lotteria e chi ha comprato il titolo 10 anni fa, proprio di questi giorni? Allora costava meno di $12 ad azione e al netto degli stock split, chi ha comprato ha già guadagnato il 1000% in questo arco di tempo. Se poi misuriamo la corsa sull'arco dei 20 anni, il guadagno sarà addirittura al 23.000%. Chi ha investito $10.000 nel 97, insomma, potrebbe ora andare in pensione sereno. Avrebbe in banca $2,3 milioni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.